Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, è la fine oggi ufficiale di una storia iniziata nel 2006, mi riferisco chiaramente all'accordo, al patto tra Alitalia e Air France KLM. Poco fa infatti Alitalia, nella nuova configurazione, quindi con un socio forte, fortissimo come Etihad Abu Dhabi, che al 49%, ha annunciato che nel 2017, quando scadrà l'accordo con Air France KLM, non verrà rinnovato. Ora, il 2017 può sembrare lontano, in realtà è dietro l'angolo per una compagnia di bandiera e per gli sviluppi futuri, il che vuol dire, ma ne parleremo in diretta con l'amministratore delegato dell'Italia, Cassano, da quello che capiamo vuol dire che Air France potrebbe anche diventare un concorrente un domani per Alitalia, e che finiranno i voli via per andare, diciamo, sulle rotte lunghe e dover passare da Parigi, e che si rafforza ulteriormente il piano strategico per cui o i voli sono diretti da Milano-Roma, nel caso specifico Shanghai, Seoul-Pechino, oppure si passa per Abu Dhabi, e qui i voli annunciati da Venezia, Abu Dhabi, Bologna, Abu Dhabi, Catania, Abu Dhabi, e da lì poi si va verso l'est, mentre sul fronte ovest resta l'idea opposta, cioè che lo scalo sia Roma o casomai Milano da Abu Dhabi per andare verso gli Stati Uniti. Sarà interessante capire anche se questo prevederà il ritorno della flotta cargo in mano dall'Italia, nel senso che poi la racconteremo, ma l'accordo con Air France, fatto in un momento in cui l'Italia era in ginocchio, prevedeva anche un grosso vantaggio per Air France per quello che riguardava i cargo, quindi non solo il traffico passeggeri ma anche il traffico cargo. Da quello che ricordiamo, l'Italia ha detto che vuole trasformare Malpensa in Cargo City, la nuova l'Italia, e staremo a vedere. Questa è una notizia poco fa battuta dalle agenzie. Nel frattempo le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria riguardano ovviamente lo scandalo che sta travolgendo il mondo del calcio. Però attenzione, non c'è solo l'inchiesta della DDA di Catanzaro sul calcio scommesse, le ispezioni della Guardia di Finanza, che sono state fatte nelle sedi della Lega, di Infront, di Sky, di RTI, di Mediaset, tutto nell'ambito di accertamenti sulla vendita dei diritti televisivi 2015-2018, 50 i fermati, 70 gli indagati, in un'inchiesta su incontri della Lega Pro e della Serie D. Oltre a calciatori ed ex presidenti, dirigenti di club, anche soggetti stranieri, e qui la cosa, diciamo, si complica e si incupisce, anche un presunto appartenente a una cosca dell''Ndrangheta. Questo è un fronte. Poi c'è il fronte diritti TV, dove l'ipotesi investigativa è di antitrust e Guardia di Finanza, è che l'esito finale della vendita dei diritti televisivi espletata dalla Lega Calcio nel giugno 2014 sia stato alterato da un accordo restrittivo della concorrenza. Il PM parla di un nuovo romanzo criminale dove gli attori si fanno beffa e ledono delle passioni e ledono la speranza dei ragazzi, si fanno beffa delle passioni di quanti seguono la propria squadra del cuore, ledono gli investimenti di denaro e speranze che impegnano le famiglie dei ragazzi che si affacciano al mondo del calcio. Non a caso l'inchiesta si chiama Dirty Soccer, calcio sporco. Poi PM dice che urge una riforma radicale delle scommesse, c'è una vicenda patologica come conseguenza del tramonto dell'innocente schedina, e sta a vedere che torneremo anche a rimpiangere la schedina. Comunque ne parleremo ampiamente in apertura, perché la vicenda è veramente veramente complicata. Parleremo poi, come dicevo, di Alitalia e ancora della riforma della scuola, non solo per l'attribuzione ai dirigenti scolastici del potere di chiamata diretta degli insegnanti degli istituti, ma anche per gli altri articoli che mancano, o meglio, l'articolo 10, che il ministro Giannini ha detto l'abbiamo votato tutto, ed è uno dei più delicati. Poi c'è anche l'articolo 14 sul limite dei contratti alle supplenze. Dico subito, per evitare polemiche, che chi vi parla, visto che da sempre sosteniamo l'importanza del merito, è totalmente a favore della chiamata diretta, perché è inutile parlare di merito e di premiare il merito e punire chi non lavora, se poi il dirigente non ha la disponibilità di assumersi la responsabilità di chi chiama. Altro tema che mi sembra sia stato un po', si è passato un po' in cavalleria, è chi giudica poi il buon andamento di quell'istituto scolastico e quindi le scelte del dirigente. Lui deve avere dei criteri per cui si dice, bene, se ci sono un insieme di elementi che non vanno, per esempio abbandono scolastico, o meglio trasferimenti verso altri istituti, poche iscrizioni in maniera patologica, crollo delle iscrizioni, aumento record dei trasferimenti, beh, c'è qualcosa che non funziona nella scuola e quindi in quel dirigente e quindi negli insegnanti che ha chiamato. Ma è inutile continuare a dire, ma il dirigente scolastico con la chiamata diretta potrà a questo punto portarsi l'amante, i parenti sono esclusi dalla legge, perché se no si mette in discussione il fatto che, ripeto, vale anche per, a mio avviso, per i primari, per tutti quelli che lavorano nel pubblico impiego. La responsabilizzazione delle persone, quindi il fatto che poi si cerchi di introdurre dei criteri di merito, passa attraverso la scelta diretta, sei tu responsabile degli insegnanti che hai messo in quella scuola. Se la scuola non funziona, sei tu il responsabile. Invece in questo momento non c'è nessun tipo di responsabilità, perché il preside dice non posso scegliere io, e quindi che poi il preside abbia o meno delle responsabilità è impossibile dimostrarlo, o difficilmente dimostrabile. Iniziamo a dare alle persone responsabilità e poi le punizioni. Quindi il tema è chi poi giudica il dirigente scolastico in base all'andamento della sua scuola. Se le chiamate che ha fatto in maniera diretta hanno aumentato, ci saranno dei coefficienti per valutare anche la scuola, no? Ma non si può contestare il principio che se uno vuole esercitare una responsabilità deve poter esercitare la chiamata diretta e a questo punto cercare di introdurre il tema del merito. Poi uno assume solo gli amici degli amici e avrà una scuola che fa schifo, dove gli alunni non si iscriveranno, e ci sarà un'inchiesta e verrà rimosso. Questa è la responsabilità, altrimenti continuiamo con l'andazzo di adesso in cui nessuno è responsabile, gli insegnanti e i presidi bravi lo fanno solo per etica personale e per spirito del dovere e di sacrificio, ma il merito non è scomparso, e questo è scomparso, e questa è una grossa colpa, ci devono dire, dei sindacati di questo paese, che anche sto giro non hanno perso l'occasione per attaccare il dirigente scolastico che chiama in maniera diretta, come se uno volesse solo circondarsi di harem e di raccomandati, e mai hanno il coraggio di affrontare realmente il tema del merito, che significa responsabilità. Responsabilizzate i dirigenti e poi mandateli via quando le cose non funzionano. No, che nessuno viene mandato via e nessuno è responsabile di una mazza in sto paese. Notizie in breve. Vedo alcuni messaggi, si verrà giudicato non solo sugli iscritti, non solo sui trasferimenti presso altri istituti, verrà giudicato anche sul grado di istruzione, e ci sono i test invalsi, però poi i test invalsi non vanno bene. Guardate, lo sappiamo che i test invalsi delle volte sono assurdi, però non si può respingere tout court un meccanismo di comparazione tra livello di istruzione, ok? Perché allora vuol dire che tu non vuoi essere giudicato. E guardate che quando non c'è giudizio, non c'è merito, non c'è responsabilità, vincono i fancazzisti e i fannulloni, e perdono le classi meno abbienti, perché i figli dei ricchi se ne vanno a studiare nelle scuole che li formano, perché uno ha i soldi per mandarli da altre parti, e chi la prende in quel posto è chi già, diciamo, ha avuto determinati svantaggi dalla vita, quindi è doppiamente ingiusto. Altro che difesa delle categorie protette, ma vogliamo uscire da questa, di questo cortocircuito sessantottino per cui se tu non introduci il merito alla responsabilità difendi i più deboli, quando ha vantaggi solo chi ha già delle grandi vantaggi in casa, economici, culturali, di estrazione sociale? L'unico modo in cui tu puoi creare un ascensore sociale in questo paese è se dai a tutti le stesse possibilità, non se continuiamo a mandare i figli di chi può nelle scuole buone e gli altri si beccano la scuola deresponsabilizzata con gli insegnanti bravi umiliati quotidianamente, gli insegnanti fannulloni e i presidi incapaci che tanto sono inamovibili. Ma porca miseria. Scrive, ma poi immaginate quanto difficile sarà rimuovere un insegnante, sono dipendenti pubblici, qui sembra quasi che li faranno fuori, ma li voglio vedere i ricorsi al TAR, i ricorsi di qua, i ricorsi di là, per cui voglio dire, allora si sente che lei non conosce la scuola, guardi, io non conoscerò la scuola, lei è un docente, mi scrive un professore, però quello che conosco sono i principi di responsabilità, di meritocrazia e di efficienza, ok? L'importante non è prendersela con l'idea che il preside possa fare la chiamata diretta, è capire come il preside viene poi valutato, chi, quali commissioni, il provveditorato agli studi, chi volete, valuterà il preside e lo farà saltare, nel senso che si può immaginare anche che un dirigente risponda pesantemente di scelte che ha fatto. Ok, questa è la responsabilità. E vedrete che poi lì, a parte qualche masochista, quelli che tenteranno di fare i furbi saranno pochi. E poi parliamo di una scuola che sembra quasi che la scuola adesso sia perfetta, in cui il merito sia premiato. Ma perché secondo voi i presidi e i dirigenti, quando possono i favori, non li fanno già adesso? Eccolo lì, quanti figli ha, quanti ha insegnato, quanti ho insegnato a parte l'università, mai. Quante volte ho partecipato a organi scolastici, poco, di figli ne ho uno, ma posso esprimere un parere sulla il principio di meritocrazia e sulla protesta che è stata fatta oppure no? Nessuno dice che devi far giudicare la scuola dai genitori, stiamo solo dicendo si può introdurre un principio di chiamata diretta, di responsabilità nella scuola oppure no? Allora teniamoci la scuola così, e gli insegnanti però non dicono più che la scuola fa schifo, né i sindacati, perché io non ho ancora capito quale sia l'alternativa, visto che di professori e presidi licenziati per cattivo insegnamento, cattiva produttività, inefficienza al lavoro, io non ne ricordo. Okay? Quindi un luogo in cui non c'è una selezione anche in negativo, non c'è la promozione in positivo, ma anche è un luogo in cui non avrai mai l'efficienza, la produttività. Ma di che cosa stiamo parlando? Se tanto le sanzioni sono impossibili, se non su casi estremi, di cosa stiamo parlando? È che chi scrive così ha paura che si introducano i criteri di merito e di responsabilizzazione. Questo a parole sembravi tutti, insomma, le chiacchiere stanno a zero. Vabbè, la borsa più 2,14%, Parigi più 2,12%, Francoforte più 2,26%, Londra più 0,21%, l'America invariata, euro su dollaro a quota 1,11, quindi in discesa. Tra i titoli poi ne parleremo, Luxottica molto bene, più 4,40%, Ubibanca più 3,80%, Campari più 3,70%, Unipolsai più 3,40%, Enel più 3,30% come Finmeccanica, il 3,11% lo guadagna Mediobanca, il 2,80% Generali, il 2,70% Mediaset, il 2,60% Intesa San Paolo, il 2,30% Unicredit, il 2,20% è il rialzo di Exor e di Telecom Italia. Bene anche Fiat Chrysler più 2,12%, Eni più 2, CNH più 2, fronte opposto Monte dei Paschi meno 1,5%, Tenaris meno 1, Azimut meno 0,70%. Però possiamo, aspettiamo un attimo per la scuola. C'è qualcuno che scrive: in questo paese ipocriticamente clericale il merito, il successo e la competizione sono da demonizzare, scacciare, evitare, mortificare. Sì, diciamo che culturalmente c'è una paura in questo paese che il merito diventi una specie di di selezione naturale, ma di tipo nazista. Mentre se qualcuno avesse letto con attenzione Darwin, saprebbe che la selezione naturale di Darwin non prevede che vince il più forte e il più ricco, perché sennò saremmo popolati nei nostri parchi di dinosauri. Darwin dice che la specie che ce la fa, che prevale sulle altre, è quella più adattiva, quella che si adatta alle circostanze esterne. E infatti hanno vinto le scimmie, cioè chi vi parla e i miei ascoltatori, ok? Questo dice Darwin, per cui anche sulla selezione smettiamo di uscire da sta cosa. E poi ragazzi, i figli che devono uscire da sta scuola non vivranno sul mercato chiuso italiano, se la vedono coi cinesi, gli indiani, i tedeschi, i turchi, gli indonesiani, e cosa gli raccontiamo a quelli lì? Cosa andranno a dire? Eh no, ma la nostra scuola non prevedeva il merito, la selezione, no. Allora lei vuole una scuola come l'America, a parte che non so se sia un istruttore, non voglio una scuola a pagamento, se questa è la domanda, come negli Stati Uniti, vorrei una scuola come in Francia, si può, in cui un po' più di selezione c'è, cioè, la scuola è pubblica e funziona benissimo, ok? Sì, sai, sono Renzi dipendente, eccolo lì. Eccolo qua, il genio della lampada è arrivata. È verissimo, mi scrive qualcuno, se lei manda i suoi figli alle scuole superiori a Udine, troverà scuole di altissimo livello. Ma nessuno ha detto che le scuole italiane siano tutte di basso livello. Ho detto semplicemente, come gli ospedali, ce ne sono di grandissima eccellenza. Ho detto solo che in questo momento l'insegnante che fa il suo dovere per uno stipendio inaccettabile se sei bravo, lo fa solo per spirito suo, di sacrificio, perché il premio e il merito non esiste nel mondo dell'istruzione, e anche il preside, poi i genitori lo sanno quale preside è valido, quale preside non è valido, ma non si può andare avanti così. Ma voglio dire, ci sarà un meccanismo anche di gratificazione da un lato e punizione dall'altro, o no? O deve esistere solo nel privato? Oh. Vedo già che il tema mi creerà parecchi amici. Allora andiamo avanti con il resto invece, il fronte internazionale. Allora, per quello che riguarda Jérôme Kerviel, qualcuno se lo ricorda Jérôme Kerviel? Era quel trader di Société Générale che fu accusato da solo di aver creato una perdita nel 2008 di 5 miliardi di euro e ha subito una condanna a 5 anni di reclusione. Ora, noi abbiamo sempre detto che era un po' strano, cioè si sarebbero dovuti dimettere almeno i vertici di Société Générale, perché se hai uno che ti fa 5 miliardi di buco e tu non te ne accorgi, devi andare a casa, o se no eri consapevole. Ora si vuole riaprire la causa perché il giudice, anzi l'ufficiale, il giudice istruttore che ha condotto l'inchiesta, Nathalie Leroy, ha detto che ha avuto prima il sospetto e poi la certezza che i vertici della banca fossero perfettamente al corrente dell'operazione incriminata e ha avuto la sensazione di essere stata manipolata, spiegando che la banca avrebbe imposto la sua versione dei fatti scegliendo gli interlocutori e facendo pressione sui testimoni. Cara Nathalie Leroy, anche noi avevamo avuto la stessa sensazione. Notizie in breve invece: l'inflazione in Europa negativa in Gran Bretagna. Pensate che è la prima volta che la Gran Bretagna va in deflazione dal 1960. Per quello che riguarda l'Europa 19 è confermata a zero. In Germania crolla invece l'indice che misura le aspettative degli investitori, è crollato a 41 punti a maggio, complice anche i dati deludenti sulla crescita tedesca nel mese di aprile. Sulla Grecia sia Angela Merkel che François Hollande dicono che la soluzione va presa entro fine maggio, quindi l'appuntamento importante sarà il vertice di Riga. E poi veniamo all'Italia, perché lo dico? Perché la Commissione Europea ha accolto con favore l'impegno del governo di mantenere gli obiettivi di bilancio inseriti nella legge di stabilità e quindi la misura che ieri abbiamo ampiamente commentato sulle pensioni. È chiaro, e poi su questo il ministro Poletti ha detto, nel caso vi fossero ricorsi, che chi volesse ricorrere dovrebbe partire da un punto di vista diverso, che è il nuovo decreto. E poi ha confermato che la legge Fornero è troppo rigida e che il governo sta lavorando per cambiarla in modo più sostenibile. Ascoltiamo il ministro Poletti al microfono della nostra Anna Marino. Discuteremo con la legge di stabilità la possibilità di rendere più flessibile l'uscita, perché noi sappiamo che abbiamo due situazioni diverse ma impegnative entrambe. Da un lato abbiamo persone avanti nell'età che rischiano di perdere o perdono il lavoro e con gli ammortizzatori sociali non arrivano a maturare i requisiti del pensionamento. Dobbiamo trovare una forma che non lasci nessuno appeso per un anno, per due anni, senza stipendio, senza salario, senza ammortizzatori e senza pensione. Quindi lì dovremo costruire una sorta di ponte che consenta di superare questa, che è una situazione socialmente molto pesante. Poi abbiamo un altro aspetto, abbiamo imprese e abbiamo cittadini che dicono: noi vorremmo poter andare prima in pensione, anche facendo un sacrificio, un sostegno dell'impresa al lavoratore che va, o la scelta da parte del cittadino di rinunciare ad una parte della propria pensione avendo la possibilità di andarci prima. Questo è un tema di flessibilità che in legge di stabilità affronteremo. È difficile da affrontare perché noi sappiamo che il tema delle pensioni pesa in maniera rilevantissima per quello che riguarda il bilancio della spesa pubblica del nostro paese. Quindi c'è un tema di sostenibilità che va gestito e che va concordato con l'Europa, perché noi con l'Europa abbiamo avviato un percorso virtuoso, positivo, che ci consegna degli elementi di flessibilità nella gestione del debito, dei parametri, e quindi ci consente di fare degli investimenti. Ma se cambiamo strada, l'Europa fa presto a cambiare a sua volta atteggiamento, quindi noi dobbiamo essere coerenti. Sul fronte del lavoro cambierete anche la legge Fornero? La legge Fornero ha un livello di rigidità che è troppo alto, che non è utile, perché alla fine non produce nulla di buono. Noi abbiamo un problema di staffetta generazionale, abbiamo un sacco di giovani che hanno bisogno di andare a lavorare, abbiamo imprese che ci chiedono di poter avere giovani, perché, come sappiamo tutti quanti, qualsiasi comunità, compresa un'impresa, se non ha tutte le generazioni dentro è meno efficiente, è meno efficace, è meno dinamica, è meno comunità, perché non va bene averci solo quelli che hanno già 40 anni o solo 50 e avanti di lì. Quindi dobbiamo costruire un meccanismo che consenta una possibilità di entrata e uscita più dinamica. Dovremo studiarlo, non sarà facile, ma lo faremo. Allora, ancora un po' di pazienza, lo dico chi sta scrivendo al 349-238-6666 e poi sulla pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sì, devo dire che questa legge Fornero non piace a nessuno, adesso un giorno vedremo come la cambierà il governo, ma insomma è una caporetto, dai, pezzo per pezzo. Già gli esodati fu un grandissimo passo falso, essere buoni. Adesso pure la parte dell'indicizzazione delle pensioni, la rigidità, l'ingresso, insomma è una legge che sta crollando pezzo per pezzo. Allora, sulle pensioni il segretario generale della CGIL Camusso dice: il decreto varato è una prima risposta non sufficiente e conclusiva. Il presidente dell'INPS Tito Boeri ricorda invece che se il governo avesse impiegato 18 miliardi, perché questo era il costo della sentenza della Consulta, le possibilità di adottare misure di contrasto alla povertà sarebbero state molto più difficili. Tra l'altro, povertà che stima il presidente dell'INPS aumentata in 6 anni di un terzo, cioè la percentuale delle famiglie povere va dal 18 al 25%. Io vorrei fare questa domanda, così oggi me la prendo anche con la CGIL, a Susanna Camusso. Ma senta una cosa, visto che lei dice che non è sufficiente, lei avrebbe preferito, come sindacato di sinistra, che il governo tirasse fuori 18 miliardi per darne gli altri 16 a persone che hanno pensione più alta di 3.200 euro e che spesso ce l'hanno con il retributivo e non con il contributivo? O volete spingere, pungolare, chiedere al governo di fare misure per le famiglie povere? Chiedo, perché secondo me è un pensionato che magari è andato pure in pensione con il retributivo da dirigente sopra i 3.500 euro, a me non è che mi sembri tanto povero, non sarà ricco, ma neanche tanto povero. Allora, volete che il governo usi questo, o magari faccia saltare il deficit, così ci becchiamo l'IVA 2 punti percentuali di IVA in più tutti quanti, così tuteliamo bene le famiglie povere, visto che l'IVA si paga anche sui beni di maggior consumo? Chiedo. Sono tutti bravi a chiedere tutto. Va bene, è che se il sindacato non torna a essere propositivo e capisce che ci sono dei vincoli di finanza pubblica qua,

State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Sette 43 minuti, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, qui non parliamo di calcio sempre più in rosso, perché già nel 2014 altri 317 milioni di perdite e debiti che portano il totale a 3 miliardi e 700 milioni. Questi dati che si leggono nel rapporto annuale della Federcalcio, nonostante il giro d'affari sia cresciuto del 56% e vada a 13 miliardi, i bilanci continuano a piangere. I soldi arrivano dai diritti TV, che incidono per il 53%. Da noi pesa molto poco, perché da noi pesano tanto i diritti TV, in Germania solo il 31%, in Francia, in Spagna il 48%. Da noi pesano poco i biglietti, solo il 10%, meno della metà che in Spagna o in Germania. In realtà il tema qui è un altro, ci sono due inchieste. Una riguarda antitrust e guardia di finanza sulla vendita dei diritti televisivi, che avrebbe leso la concorrenza e sperato la Lega Calcio nel giugno 2014. L'altra invece riguarda tutta la Lega Pro e la Serie D. Gianni, vai. Sì, l'inchiesta maggiore mi sembra questa della, originata dall'ispezione della Guardia di Finanza nell'ambito delle analisi che sta facendo l'autorità per la concorrenza, l'antitrust. Cosa riguarda? Riguarda l'assegnazione circa l'estate scorsa dei diritti televisivi dal 2015 al 2018, quindi dal prossimo campionato per 3 anni. In effetti accade una cosa strana, che il meccanismo di gara prevedeva una serie di esclusioni di pacchetti eccetera, poi in base alle offerte come erano state presentate Mediaset non avrebbe avuto diritto ad avere i pacchetti più pregiati e invece li avrebbe presi Sky. Stranamente, curiosamente, direi anche stranamente, alla fine era emerso un compromesso, un accordo tra Sky Mediaset per dividersi questi pacchetti in modo che nessuno rimaneva fuori. Adesso il sospetto, dalle notizie che vediamo uscire oggi, è che l'antitrust ritenga questi accordi lesivi della concorrenza. Cioè, cosa sarebbe successo? Che mettendosi d'accordo avrebbero forse ridotto il prezzo pagato alla Lega Calcio, e certo, quindi alla squadra, pur essendo un prezzo più alto di quello del triennio precedente. Questo è il punto principale che emerge da oggi. E poi c'è anche il discorso, un altro discorso che riguarda Lega Pro, come hai detto, cioè, riguarda anche degli altri problemi. Comunque, insomma, è sempre una situazione di un calcio che non finisce di stupire per situazioni sempre piuttosto. Sì, tra l'altro, appunto, c'è il PM durissimo nella requisitoria, e tra l'altro Malagò, invece, il presidente del CONI, dice: beh, potrebbe essere atto dovuto, non necessariamente per cose che non vanno. Sì, ok, questo vale per tutti, però è meglio non avere l'ispezione in Malagò della Guardia di Finanza. Che discorsi sono? Diritti TV e l'Infront dice: collaboriamo sull'accertamento dei fatti. E nel mirino dello scandalo anche una gara di Coppa Italia tra Sassuolo e Pescara con un tentativo di combin poi fallito. L'ex, poi tra l'altro vi sarebbe un ex dirigente che praticamente l'ex dirigente di diverse squadre della Serie A e C, e oggi editorialista della rivista online Tutto Lega Pro, Vittorio Galigani, parlando con il direttore sportivo dell'Aquila, Ercole Di Nicola, dice, però questo bisogna capire quanto millanta, quanto sia vero, che sia Macalli che Tavecchio sarebbero due rinco, puntini puntini, in mano a Lotito. Vabbè, c'è di tutto qua dentro. Il vero problema, Gianni, è che tutto questo si salda in un mondo del calcio che continua a perdere soldi. A me sembra poi questo, alla fine della fiera, l'aspetto, no? Più. Sì. Prego. No, dico, nonostante comunque sia innaffiato da una valanga di soldi che arrivano dai diritti televisivi, che è, tranne se si esclude il caso della Premier League, dove i diritti valgono ancora di più, comunque hanno un valore sia relativo, percentuale al totale degli incassi, sia assoluto, che è più alto di quello di altre leghe continentali, però manca un pezzo importante nelle entrate. Tu hai ricordato giustamente che gli incassi da stadio dei biglietti sono molto bassi, sono intorno ai 200 milioni complessivi per tutto il sistema, per tutta la Serie A, cioè un po' meno, intorno al 10% dei ricavi totali, e quindi questo è una penalizzazione rispetto ad altri paesi, ma c'è una chiara ragione se è così, e cioè che non vengono fatti degli investimenti per migliorare gli impianti, per farli nuovi, perché poi ci sono anche qui una serie di problemi. Le società vorrebbero o costruire delle cubature immobiliari in più, o che questi soldi, a sperare che arrivassero dal pubblico, ma questo non è più possibile, e quindi questo è un freno grosso alla possibilità per il calcio di essere più appetibile, di amministrato meglio e di avere quindi dei bilanci più forti e più sani. Staremo a vedere, l'inchiesta è veramente in corso, e a mio avviso tra il fronte Lega Pro e Serie D e il fronte, diciamo, Sky Mediaset diventerà forse un verminaio, perché insomma sta uscendo, e siamo veramente ai primi atti. Grazie intanto a Gianni Dragoni. Il traffico. Focus Economia. Allora, sulla scuola, mentre vengono approvati vari articoli, c'era anche, come citavo, l'articolo 10 importante che prevede il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per 107.000 nuovi docenti, e poi dal 2016 una nuova stagione di concorsi. La legge di stabilità, ricordo, aveva stanziato 1 miliardo proprio per riuscire a eliminare le graduatorie ad esaurimento, perché la cosa scandalosa di questi docenti precari che insegnano e non hanno nessun tipo di stabilizzazione. Restano escluse dalle assunzioni gli insegnanti della materna, che sono 23.000 persone, non sono meno importanti, ma ahimè sono escluse da questo provvedimento. Vorrei affrontare con domani a questo punto, anzi sì, domani, facciamola domani, tutti i temi della riforma, visto che gli articoli li stanno approvando. C'è anche l'articolo, è passato anche l'articolo 14 sul limite ai contratti delle supplenze, e lo faremo anche con Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, che ringrazio. Buonasera Eugenio. Buonasera. Tu dici, perché allora mi hai ospite in diretta? No, non sono impazzito, perché vorrei chiarire solo un punto, visto che l'abbiamo aperto all'inizio del programma, il tema della chiamata diretta. Allora, l'articolo 9, che attribuisce ai dirigenti scolastici il potere di conferire ai docenti della scuola l'incarico triennale rinnovabile ed è rivolto ai docenti di ruolo assegnati nell'ambito territoriale di riferimento. Nel caso di più proposte di incarico sarà il docente a dover optare, e l'incarico è affidato in modo da valorizzare il curriculum, le esperienze e quant'altro. Allora, chi giudica poi, che secondo me è l'unico tema, perché ho già spiegato come la penso sulle accuse e le critiche alla chiamata diretta, che è giustissima, sacrosanta, chi giudica però il dirigente scolastico? Nel senso che se io mi circondo di amici degli amici, o di yes man o di yes woman, incapaci come qualità dell'insegnamento didattica, chi mi giudica come preside? Allora, la novità, diciamo, forse principale dell'intero disegno di legge è che tutte le componenti della scuola verranno valutate una volta che diventerà legge. Tra questi anche il dirigente scolastico, che sarà valutato dagli ispettori ministeriali, e il disegno di legge in commissione ha, diciamo, migliorato questa parte, ha previsto uno stanziamento ad hoc per il reclutamento di questi ispettori. Bene. E ha fatto in modo che, diciamo, ha introdotto una sorta di contrappeso. Quindi da un lato io responsabilizzo, ampliando i poteri e facendo in modo che il preside scelga una piccola parte del Certo, staff. Perché poi una piccola perché, parte. Sì, stiamo parlando dei docenti aggiuntivi, di quelli che faranno gli insegnamenti in più che il preside, certo, intesa con tutto sto casino, tra l'altro hai fatto bene a ricordarlo, per sì, una quota marginale degli insegnanti, prego. Sì, non sceglierà il docente di ruolo che continuerà a essere assunto attraverso, cioè sui posti liberi si entrerà attraverso le graduatorie, come certo, si è entrati fino adesso, con l'aggiunta di svuotarle, quindi fare in modo che poi dal 2016 i posti che si libereranno col turnover verranno riempiti con i concorsi. Diverso è l'organico dell'autonomia, sulla quale, diciamo, il preside avrà l'ultima parola in qualche modo. Quindi nel momento in cui una scuola deciderà di rafforzare la storia dell'arte, sarà il preside a decidere quale docente di storia dell'arte da questi elenchi prendere, tenuto conto delle eventuali autocandidature, tenendo conto dei curricula, dovendo poi pubblicare su internet i curricula dei docenti. E dovendo poi rispondere, e l'unico sistema che forse in Italia funziona è quello di colpire la tasca, e alla valutazione del dirigente sarà legata l'erogazione del premio di risultato. Un principio di metodo. Eugenio, io ti aspetto domani in diretta, perché ci sono tanti elementi, alcuni più criticabili, altri meno. Sulle private non abbiamo mai difeso le sovvenzioni alle private, quindi sbaglia chi scrive. L'appuntamento sui temi della scuola è domani anche con Eugenio Bruno. Adesso devo dare la linea GR24, poi parliamo della borsa, parliamo dell'Italia che rompe con Air France, e domani commenteremo tutti gli articoli approvati della riforma scolastica. GR24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Risparmio e Trading a Rimini, 21-22 maggio, itforum.it, è gratis. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Qualcuno mi chiede: ma e chi valuterà gli ispettori? Ho capito, intanto manderanno gli ispettori a valutare i prestiti, però possiamo darci appuntamento a domani, quando dedicheremo parte della puntata alla riforma della scuola, visti gli articoli che si stanno approvando anche in queste ore, anche il bonus per il metodo docente approvato, l'articolo 13, stanziati 200 milioni di euro. Bonus che sarà assegnato al dirigente scolastico sulla base dei criteri indicati dal comitato per la valutazione, che non verrà assegnato se è un incentivo anche quello, Comunque ne parliamo domani. Adesso la borsa oggi, anche ieri la giornata era buona, era falsata dallo stacco cedole, oggi ancora più buona, più 2,22% Milano, più 2 Parigi, più 2,20 Francoforte, più 0,40 Londra, invariata l'America, tutte positive quindi le borse dell'area euro. Mentre fra poco sarà nostro ospite l'amministratore delegato di Alitalia Cassano, dopo l'annuncio che si interrompe il patto con Air France dal 2017. Paolo Paronetto, intanto, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevo, tutte ben impostate le borse europee, ci sono dichiarazioni della Banca Centrale che ha detto di essere... che continuerà a aiutare e a sostenere l'economia finché sarà necessario. Le banche oggi particolarmente bene, UbiBanca più 4% e poi Intesa più 3%, ancora Unicredit più 2,45%, Pop Milano più 1,70%. Sì, il settore bancario ha beneficiato, come ricordavi tu, delle dichiarazioni della BCE, che appunto ha rassicurato sulla durata del quantitative easing e sul volume degli acquisti di bond, quindi alimentando un po' l'ottimismo degli investitori. Inoltre diciamo che il mercato oggi ha anche scommesso sull'esito positivo dei negoziati con la Grecia, dopo le dichiarazioni di Hollande e anche di Angela Merkel, e quindi anche sul fronte greco oggi c'è stata una schiarita, anche la borsa di Atene infatti ha chiuso in buon rialzo, e tutte le banche ne hanno approfittato, beneficiando inoltre anche dei piani del governo sul fronte delle sofferenze e dei crediti deteriorati. In particolare molti banchieri auspicano da tempo una riforma della legge fallimentare, e se ne sta parlando, il governo sta studiando delle soluzioni, e quindi oggi gli investitori si sono posizionati sui titoli anche aspettando una mossa di questo tipo, che sbloccherebbe la vendita di crediti deteriorati e favorendo la pulizia dei bilanci delle banche. Ancora per quello che riguarda i titoli, Luxottica oggi più 4,40%, al di là del bonus che darà ai dipendenti, 9 milioni di euro di cui parlavamo prima. c'è il titolo Luxottica e poi UbiBank, diciamo più 4%, Campari è anche più 4%, e le auto in Europa, le immatricolazioni, cresce il mercato in Europa più 7% in aprile, nei primi 4 mesi del 2015 più 8%, e Fiat va particolarmente bene, e siamo contenti, Fiat Chrysler, perché fa un risultato doppio rispetto alla media di mercato europeo, più 13,4%. Esattamente, quindi la quota di mercato è salita al 6,5% e naturalmente i titoli ne hanno beneficiato, gli investitori hanno comprato le azioni Fiat Chrysler e spingendole fino a 14 euro esatti, che è la chiusura di oggi. Quanto Luxottica e Campari che citavi prima, in questo caso c'è anche l'effetto del rafforzamento del dollaro, a dire la verità è l'indebolimento dell'euro che proprio sulle dichiarazioni accomodanti della BCE, oltre che su un dato negativo tedesco, oggi è sceso molto, un euro vale 1,1148 dollari e quindi tutte le società molto esposte sul dollaro, come ad esempio Luxottica e Campari, oggi hanno guadagnato terreno in borsa. Mediolanum, qui ci sono sempre le voci su Bolloré che stia crescendo all'8%, il titolo si muove bene. Mediobanca, scusami, ho detto Mediolanum, ci mancherebbe. Mediobanca, il titolo più 3,32. Sì, esattamente, in seguito agli ultimi acquisti di Bolloré, che era al 7,5% circa per cento, ormai è a un passo dall'8% e conferma l'intenzione del finanziere bretone, l'impegno a lungo termine in piazzetta Cuccia, e quindi diciamo che insieme all'andamento generale del settore bancario questa indicazione oggi ha sostenuto i titoli dell'istituto. Ancora, tra chi oggi non è andato bene, Monte dei Paschi meno 1,40%, qui l'aumento di capitale immagino, visto che le altre banche sono tutte andate bene, Tenaris meno 0,90%, Saipem meno 0,80%, Enel meno 0,50%, ancora tra i titoli segnalo, oltre a quelli già citati, bene Enel più 3,14%, Generali ancora sui conti più 3%, Telecom più 2,5%, di Exor abbiamo detto, Eni più 2%, Pop Milano più 1,70%, migliori e peggiori in assoluto, Safebag più 19,28%, Fedon più 10%, Best Union Company più 8,70%, Prima Industria più 6,90%, Fronte Opposto High Real meno 9,40%, Iniziative Bresciane meno 5,50%, Caltagirone meno 4,80%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso le informazioni sul traffico e poi parliamo di questa rottura che non si verificherà adesso ma nel 2017, quindi un tempo relativamente breve, la rottura tra Alitalia e Air France, un accordo che, lo ricorderemo, data e va indietro fino al 2006. Traffico. Focus Economia. Facciamo un tuffo, infatti nel passato era il 2006 quando il governo Prodi diede il via alla prima privatizzazione di Alitalia e cedette lo Stato il 37% delle azioni della società. Poi, alcuni di voi lo ricorderanno, si arriva al 2008, il governo Prodi è in scadenza, ci sono le elezioni e in aprile l'accordo con Air France salta, trattative inoltrate. E Berlusconi, candidato premier, poi eletto premier, si dichiara contrario, contrarissimo alla cessione dell'Italia ai francesi e arriva la cordata CAI, quella dei patrioti, così battezzata. I passivi dell'Italia vengono scaricati su una bad company con un costo per la collettività di 4 miliardi di euro e il 13 gennaio 2009 c'è il primo volo della nuova Alitalia, quella in cui sono entrati gli imprenditori di CAI. Il problema è che nel 2013, già nei primi sei mesi, il bilancio dell'Italia registra di nuovo 294 milioni di perdite, cioè siamo tornati quasi a perdere più di un milione di euro al giorno. Ai primi di ottobre, sempre del 2013, gli aerei della compagnia rischiano di restare a terra per mancanza addirittura di rifornimenti. Arriva poi una boccata di ossigeno dall'aumento di capitale che viene approvato dall'allora consiglio di amministrazione e poi si muove Poste Italiane, in una vicenda che abbiamo anche raccontato con un investimento da mezzanino, diciamo, di 75 milioni di euro. Poi partono le trattative con gli Emirati Arabi, con Etihad, che porteranno all'accordo nell'agosto del 2014. Infatti Etihad paga 560 milioni di euro per il 49% del capitale. Oggi l'annuncio, che non subito, però nemmeno tra tanto, nel 2017, quando arriveranno a scadenza gli accordi di joint venture con Air France KLM, non verranno rinnovati. Ci ha raggiunto in collegamento, lo ringraziamo, l'amministratore delegato di Alitalia Etihad, Silvano Cassano, buonasera. Buonasera, sono l'amministratore delegato di Alitalia. Di Alitalia, l'Italia Etihad a noi piace, fra un po' vedremo, però ancora l'Italia, anche se Etihad è importante, no? Questo non vogliamo negarlo. Certo. Allora, in realtà io dico Alitalia Etihad perché adesso al di là delle battute, il cambio di strategie di rotta, inteso non come rotta aerea ma come rotta, diciamo, strategica, a noi risulta abbastanza evidente, sia per le nuove rotte che avete lanciato, le abbiamo raccontate anche con lei, l'ultima arrivata è il Milano-Shanghai, ma ci sono tutte le nuove destinazioni che avete annunciato sia da Venezia che da Bologna che da Roma, e sia adesso per questo annuncio, come mai non rinnoverete gli accordi con Air France KLM? Il mercato del mondo aereo, soprattutto in Europa, è un mercato estremamente competitivo che costringe le aziende che operano a schiacciarsi su due poli. O sei low cost, e questo spazio è già occupato benissimo da Ryanair, EasyJet e Vueling, o vai verso l'alta qualità e lo sviluppo del traffico premium, altrimenti si cade in quella che è la sindrome della clessidra, stai in mezzo e prendi botte da una parte e dall'altra. Ora chiaramente l'Alitalia del passato aveva dei problemi finanziari, non poteva sviluppare programmi a lungo raggio. Da gennaio, quando abbiamo preso in mano l'azienda, abbiamo detto pubblicamente che noi puntiamo a diventare una compagnia aerea 5 stelle che sviluppa un traffico premium privilegiando il traffico a lungo raggio e quindi delle rotte extraeuropee. Per fare questo chiaramente occorre una solidità finanziaria per comprare o prendere il leasing gli aerei, i white bodies a lungo raggio, quindi l'Airbus 330 o i Boeing 777, e noi oggi siamo in questa posizione. Abbiamo sviluppato in questi mesi tutta la nostra mappatura, abbiamo annunciato, come ha detto lei prima, già quest'anno un progetto molto aggressivo, 3 voli giornalieri su Abu Dhabi da Milano, Roma e Venezia, abbiamo lanciato la Shanghai, il 4 giugno parte la Roma-Seul e poi nell'ultimo trimestre faremo Pechino. Insomma, tanta carne al fuoco, ma dobbiamo accelerare questo piano di sviluppo, gli aerei non sono più un problema da un punto di vista finanziario, abbiamo una strategia commerciale molto chiara condivisa col Consiglio di amministrazione a maggioranza dei soci italiani. Nell'ambito di questa revisione noi dobbiamo preparare la flotta e gennaio 2017 nel nostro business è domani. Mm-hmm. Abbiamo quindi valutato attentamente i pro e i contro. L'accordo firmato Air France all'Italia era in un momento di estrema debolezza di Alitalia. Nel mondo degli affari gli accordi si negoziano da un punto di vista di forza, ci sta un po' stretta la coperta e per correttezza verso il nostro partner abbiamo notificato con ampio anticipo che non rinnoveremo l'accordo, che naturalmente rispetteremo fino alla sua scadenza naturale. Mi scusi dottor Cassano, ma se ho ben capito lei sta dicendo che l'accordo firmato con Air France KLM era troppo vantaggioso per i francesi? Diciamo che hanno fatto un buon accordo. Quindi era più vantaggioso per loro? Tarpava le ali dall'Italia nello sviluppo del rungolaggio e privilegiava ancora troppo il cosiddetto fideraggio verso i loro aeroporti dal mercato italiano, però va anche detto per correttezza che era un momento in cui l'Italia non poteva investire sugli aerei a lungo raggio, quindi forse aveva una sua logica quando è stato firmato, che non lo discutiamo, non è più rispondente alle nostre esigenze, noi siamo in grado di competere da soli sul mercato globale e quindi questo accordo non ci va più bene. Quindi per far capire a tutti, era un accordo che, fermo restando in quel periodo dove l'Italia non aveva i soldi per comprarsi gli aerei a lungo raggio, la banalizzo per far capire a tutti, era un accordo che portava la maggior parte dei voli a lungo raggio su Parigi, se non ricordo male, e lì poi Air France usava la sua flotta a lungo raggio, quindi poteva avere un senso nel momento in cui l'Italia non riusciva a garantire il lungo raggio perché gli mancavano gli aerei, ma adesso che voi volete puntare, fare concorrenza, diciamo, a Emirates, a Qatar, a tutti i grandi player della fascia alta, non ha più senso portare i passeggeri a Parigi, ha più senso o farli volare direttamente da Roma, Milano, Venezia o farli passare da Abu Dhabi, ho capito bene? Esattamente così, anche perché non dimentichiamoci che più noi teniamo questo business in Italia, più l'economia italiana e tutto l'indotto ne ha vantaggio. Le faccio un esempio, è molto importante parlare di passeggeri, ma noi abbiamo dichiarato pubblicamente che vogliamo sviluppare il traffico cargo a Malpensa con Cargo Sì, che fa parte delle nostre negoziazioni con l'ASEA, si ricorderà la polemica sull'abbandono di Malpensa. Noi abbiamo già lanciato delle rotte a lungo raggio passeggeri da Malpensa, ma siamo fermamente intenzionati a l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa e Malpensa è una ottima base per il sud Europa, soprattutto in accordo con Etihad, per trasferire tutto il traffico tra Asia e America. Etihad fattura oltre $1 miliardo nel cargo, all'Italia non può sviluppare il cargo perché è stato dato totalmente in outsourcing ad Air France KLM. Ci vogliamo riprendere questa attività perché tra l'altro nel territorio del nord il traffico indotto nel cargo è molto elevato rispetto a quello dei passeggeri, quindi abbiamo dei progetti molto aggressivi di investimento. E quindi c'è il fronte, diciamo, lungo raggio per i passeggeri, per cui quell'accordo lì che di fatto avvantaggiava soprattutto Air France, lei ce l'ha chiarito molto bene, sul lungo raggio adesso verrà cambiato, per cui il lungo raggio o resta in casa italiana o, male che vada, passa per Abu Dhabi come hub. E poi c'è il fronte cargo, cioè voi volete riprendervi il controllo di tutti i cargo che in questo momento vengono gestiti di fatto da Air France. Sì, per noi il cargo non è la cenerentola del business, è un'attività molto molto importante, sappiamo, avendo analizzato quello che ha fatto Etihad, che può essere anche molto profittevole. Ripeto, l'Italia è un paese manifatturiero che esporta, dico delle cose banali, e non è possibile che all'Italia non giochi un ruolo rilevante nel traffico cargo, anche perché Malpensa è un hub perfetto per il sud Europa ed è uno snodo centrale tra Europa e America, America e Asia. Il traffico delle rotte passeggeri a lungo raggio noi lo svilupperemo direttamente, senz'altro, Nord e Sud America e Cina, integreremo Abu Dhabi per tutto quel traffico verso il sud-est asiatico, quindi India, Australia, Seychelles, che non serviamo direttamente, quindi non c'è overlap ed è questo che rende la cosa. Non c'è sovrapposizione. Senta, ancora due domande rapidamente, però questo vuol dire che adesso non dico domani, ma un tempo molto breve, Air France KLM diventa un vostro concorrente? Nel momento in cui gli accordi scadranno, se non riusciamo a rinnovare un accordo che sia più equilibrato, Air France diventerà un concorrente di Alitalia e chi è più bravo se la gioca e se la vince. Quindi se non rinnovate accordi entro il 2017 anche il code sharing che salta, voglio dire il fatto che io acquisissi punti, che c'erano delle tratte comuni. Non necessariamente, noi siamo in accordo di co-sharing anche con dei concorrenti, Aeroflot ed altri. Il co-sharing è un accordo neutro che privilegia il consumatore. Accordi in essere attualmente privilegiano un po' troppo una delle due parti, quindi il co-sharing ci sta nell'ambito della compagnia. E l'alleanza SkyTeam a quel punto? È una cosa diversa, stiamo discutendo anche con SkyTeam, sono in contatto con il loro amministratore delegato, ci parleremo nei prossimi giorni e poi ci sarà un appuntamento molto importante a Miami ai primi di giugno, c'è il congresso mondiale IATA dove faremo una serie di incontri bilaterali e trilaterali per vedere in che modo l'Italia può restare in SkyTeam, che però, ripeto, non è necessariamente una conseguenza che siccome abbiamo rispettato il France usciamo da SkyTeam, vedremo. Però non a queste condizioni, mi sembra di capire. A queste condizioni preferiamo giocarsela da soli. Anche su SkyTeam? Non ho detto questo, SkyTeam non è al momento nel radar, vedremo con loro. SkyTeam sono circa 31 compagnie aeree, quindi come può capire va molto al di là di Atlantico. Per cui, insomma, questo è l'obiettivo, però lei non ha chiuso, questo per essere chiari ed evitare fraintendimenti, lei dice vediamo se poi con Air France vi potrà essere un accordo di altro genere, altrimenti sarà un nostro concorrente, ho capito bene? Esatto, abbiamo servito la disdetta, manterremo il contratto e tutti i passeggeri naturalmente avranno tutti i benefici fino al gennaio 2017, se non troviamo un accordo tra adesso e allora, concorrenti. Ok, un'ultima cosa che ci chiedono gli ascoltatori, ma lei citava il traffico verso il sud-est asiatico, che chiaramente anche un senso geografico avrà come snodo Abu Dhabi, no? Tranne che per alcuni voli diretti, appunto Milano-Shanghai, Roma-Seul e Pechino. Pechino, esatto, poi Venezia-Abu Dhabi invece, se ricordo. Ecco, però per i voli invece verso Occidente, cioè verso gli Stati Uniti, sarà Roma l'hub o no? Perché questo non l'ho ancora capito. Guardi, Etihad non volerà dall'Europa verso il transatlantico, userà l'Italia, Roma e l'Hub, abbiamo anche però dei voli da New York, da Malpensa, quindi Roma è l'Hub principale, ma stiamo guardando anche a possibili sviluppi da altri aeroporti. Stiamo discutendo con questo con il nostro partner Delta, che è un'altra joint venture che è l'Italia. Quindi diciamo dal Medio Oriente e dal sud-est asiatico uno potrebbe usare via Abu Dhabi Roma come scalo? Sì, beh, Roma, noi abbiamo Abu Dhabi, Roma, Milano e Venezia, abbiamo detto che apriremo anche Bologna e Catania, quindi è un bel verso Occidente, cioè per andare verso Stati Uniti e Sud America? Al momento può andare in Stati Uniti e Sud America via Roma o via Milano, perché abbiamo dei giornalieri da Abu Dhabi e poi da Roma e Milano se abbiamo gli Stati Uniti. Ok, molto chiaro, e quindi rinegoziate tutto con Air France, adesso vedremo poi che accordo farete, e per quello che riguarda SkyTeam invece l'appuntamento è rimandato a Miami a giugno, no? Corretto. A giugno. Grazie all'amministratore delegato di Alitalia, no, grazie non a dico, voi. Non dico Etihad, di Alitalia, Silvano Cassano. Arrivederci. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani torniamo alle 17, parleremo anche della riforma scolastica. Intanto, come sempre, da Sebastiano Berisoni, l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.